tanti remoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze fare in quanto volete. Oggi le donne faranno. Prendi questo biglietto del danar che mi avevi, ed è tua dote, che ti la corte sorsa. E questa ancora, bravi, gittati pure che ho figlio di ora. Proviamo a informarlo.